America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Uno swing americano che vi faccio ascoltare perché oggi voglio parlare di un collegamento tra l'America e l'Italia. Tutto sommato questo programma si occupa anche di questo, sia dal punto di vista del business che dal punto di vista della cultura, che dal punto di vista del commercio, della moda, del cinema, della letteratura. Ecco, oggi vorrei parlarvi di un anniversario molto importante per quelle che sono così i rapporti, le tensioni culturali fra Italia e Stati Uniti, e cioè il 500° anniversario, che cade quest'anno, della morte di Amerigo Vespucci. Amerigo Vespucci, il grande esploratore fiorentino, che come sapete partì a un certo punto in concorrenza con Cristoforo Colombo per andare a esplorare il nuovo continente. Ecco, sulla teoria del nome, beh, ci sono molte storie, però diciamo quella più accreditata è che proprio Amerigo, attraverso queste sue esplorazioni, attraverso viaggi nel Sud America, attraverso la definizione di una cartina geografica molto più completa di qualunque altra cartina che si conoscesse allora, fu poi l'uomo che diede al femminile il nome al continente americano. E vorrei parlarvi di una iniziativa che ha cercato in qualche modo di celebrare idealmente questo anno particolare, e cioè di una mostra dedicata ad artisti americani che invece sono andati a Firenze. Una mostra che si chiama American Dream, è una mostra che è allestita a Palazzo Strozzi, e devo dire, io l'ho vista questa mostra, una mostra molto interessante, perché conferma una volta di più quanto gli americani, ma parliamo di americani non di adesso, che magari cercano la villa nel Chianti o in Toscana per andarsi a godere il sole, il vino e la buona cucina, ma parliamo di americani che erano straordinariamente colti e che andavano alla ricerca di radici culturali, alla ricerca di punti di vista, alla ricerca di ispirazione. Ho con me ai microfoni di America 24 James Bradburn, che è il direttore di Palazzo Strozzi e che ha allestito insieme ad altri curatori questa mostra. E dunque vorrei chiedere a lui, ma James, buongiorno intanto. Buongiorno. Allora James, ma questi americani andavano già alla fine del secolo, all'inizio del secolo in Italia, puoi raccontarci un po' cosa c'è dietro questa mostra e qual era il motore che spingeva questi americani ad andar lì? Ma infatti sono due mostre, una grande mostra sul piano nobile del Palazzo Strozzi che si chiama Americani a Firenze, precisamente su questi giovani americani che sono andati prima in Europa per scoprire il patrimonio europeo. Sono passato spesso prima a Parigi, a Londra, a Monaco, però quasi tutti, sono andato finalmente a trovare la fonte della cultura in Italia e soprattutto a Firenze. Firenze a questa epoca, nella fine Ottocento, era la Firenze anche molto cosmopolita. Dopo la riunificazione, dopo 5 anni di essere capitale d'Italia, infatti, è una città vibrante, dinamica, come adesso infatti, ma veramente il centro del mondo della cultura. So, erano Henry James, John Singer Sargent, Vernon Lee, dopo è arrivato Berenson, e tutte le grandi americane, le grandi figure dei personaggi della cultura sono state a Firenze. Ecco, hai menzionato John Sargent, ci sono molte opere di John Sargent, ma John Sargent nasce a Firenze, è un fiorentino, ecco, nasce a Firenze, ma poi John Sargent sviluppa anche una tensione con Henry James, che è il grande scrittore americano, e quindi un rapporto che di nuovo avviene a Firenze. Ecco, già allora la diplomazia funzionava, insomma, la gente si muoveva, insomma, era una prassi. Ma Firenze, dobbiamo aprire una parentesi, ma Firenze è stato il primo luogo per gli inglesi nel 500 di una presenza diplomatica. Però, come stavo dicendo, questa mostra racconta questi giovani che sono venuti a Firenze per esplorare, per recuperare una certa nostalgia, però facendo in una maniera molto contemporanea. E c'è una seconda mostra, Palazzo Strozzi anche, che si chiama American Dreamers, che è sull'arte contemporanea americana, adesso curata insieme con il Hudson River Museum, per mostrare non soltanto le giovani americane del Neo-Ottocento, però le giovani americane di adesso. E adesso abbiamo anche una grande installazione dell'arte contemporanea in cortile. Gli artisti americani, come venivano alla fine del secolo, continuano a venire, o forse c'è stato un po' un cambiamento di tipologia americana che viene a Firenze in Toscana, cioè forse oggi vengono più gli imprenditori, i banchieri che si comprano delle belle ville e che e un po' meno vengono gli artisti, o ci sono anche movimenti artistici, scrittori? So che c'è un premio letterario piuttosto così contemporaneo, moderno, organizzato dalla Fondazione Fonrezzori che cerca di attirare appunto scrittori e artisti contemporanei. Ecco, però la tua sensazione, tu sei un uomo che vive nel mondo dell'arte internazionale, e che ci sia qualche cosa da fare su questo su Firenze o no? Ma io direi che adesso Firenze è veramente una fase molto stimolante, molto interessante, perché infatti gli artisti vengono, infatti gli scrittori vengono, infatti i visitatori, i turisti, se vogliamo dire, però non sono turisti classici, vengono a Firenze a trovare l'ispirazione, precisamente come le giovani artisti sono venute nell'Ottocento. Tutto il percorso di questi artisti è cominciato con questo, con una visita, come tutti i turisti adesso. Però loro hanno dopo cercato le ville, loro hanno voluto vivere nelle colline e hanno convinto uno, per il proprietario, che le studiose, ma loro hanno fatto le feste tutta la notte come tutti gli americani adesso. Certo. Però questi artisti sono andati nelle colline per dipingere la loro immagine della cultura antica, europeo, rinascimentale, con un certo nostalgia, perché questo è lo stesso che è rappresentato in tutta la letteratura. Però, come ho detto, loro erano le giovani artiste contemporanee all'epoca. Loro hanno dipinto queste rovine, queste ponte, questi personaggi, questi diversi contadini, però in la maniera la più moderna, la più contemporanea che esistava, l'impressionismo. Certo. E questa è una cosa che dobbiamo recuperare, di fare l'arte, la produzione dell'arte è sempre contemporaneo, e soltanto viviamo tutti il passaggio di tempo. I giovani sono centrali in questo, i giovani continuano ad essere a Firenze, se non sbaglio le università americane a Firenze hanno il più alto numero di outside campus, di colleges, in qualunque altra parte del mondo, forse. Sono più università americane a Firenze che in qualsiasi città del mondo, incluso America. Ecco. Sono oltre 35 università. Ecco, 35 università americane studenti a Firenze e 30.000 studenti. Questo è 10% della popolazione del centro storico. È 10%. Firenze è una città che ha una grande popolazione giovane. Facciamo, noi siamo aperti fino a giovedì, tutte le giovani fino alle 11 la sera, facciamo ogni secondo giovedì del mese un DJ set, lezione gratuita nel centro dell'arte contemporanea, tutto, ma c'è tutto in vita. E quindi Amerigo Vespucci sarebbe stato orgoglioso della sua Firenze d'oggi nel rapporto con l'America? Ma lui era anche un grande, lui è andato via per scoprire il mondo, e io credo che lui sarebbe stato molto orgoglioso del sviluppo della sua città natale. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPratero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Christina Aguilera ha annunciato l'uscita in agosto di un nuovo single. La cantante interrompe così una pausa di 2 anni. Si era dedicata soprattutto al talent show The Voice di Christina Aguilera. Beautiful. Every day is so wonderful, and suddenly it's hard to breathe. Now and then I get insecure from all the pain. I'm so ashamed. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!